E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. A microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Ritornano gli ospiti in studio e ancora una volta dalla Ravennate è venuto a trovarci una band che, come sempre, ci farà sentire il loro disco. A voi la parola, ragazzi, per le presentazioni. Ciao a tutti, io sono Mauro San Pedro, il chitarrista degli Stone Machine. Io sono Luca Hernandez, cantante degli Stone Machine. E mancano gli altri due membri della band che salutiamo, ovviamente. Igor, che è il batterista, ciao Igor, e Filippo, che è il bassista. Ciao Filippo. E con gli Stone Machine, una prima parte dedicata all'hard rock americano dei primi anni 70, iniziando dai Blue Oyster Cult, che abbiamo ascoltato dal disco Secret Chiaches del 1964 con MA262. Formazione ancora attiva, anche se sono nei live, ma che ha saputo percorrere una strada originale nel sound. Che ne pensate? Beh, il sound, soprattutto il suono delle chitarre, a me è piaciuto molto, quindi approvo. Molto rock, molte improvvisazioni e divulgazioni. Sì, no? Beh, comunque era anche tipico di quegli anni lì suonare in quel modo, quindi... Infatti, mi aggrada. Gli Stone Machine sono assieme dal 2003, come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Stone Machine sono nati nel 2003 dall'incontro di Mauro e Stefano, che era il bassista di allora, sono i membri fondatori della band, parlando della cultura stoner, di sound grezzi. Di sound primitivo proprio. Primitivo. Duro. Esatto, duro. E in pratica è nato questo progetto con l'intento proprio di suonare qualcosa di estremamente primitivo e che quindi andasse un po' controcorrente a quello che è proprio smuove oggi... A parte il mondo musicale, ma tutto quello che riguarda un po' la società, così, quindi un po' contro la tecnologia che rischiano in qualche modo di schiavizzare la vita delle persone. E Stone Machine, il significato del nome, vabbè, è interpretabile, però quello che a noi piace di più è l'idea del sistema stonato e che quindi del sistema che in un qualche modo non funziona. E Noi lo paragoniamo un po' comunque al sistema proprio che riguarda la nostra società e che quindi è fallimentare praticamente sotto quasi tutti i punti di vista. Beh, anche una macchina impazzita, esatto. Stonata, sì, sballata. Comunque incontrollabile, fuori controllo e quindi non va più dove la vuoi fare andare tu, ma lei prende il sopravvento e va dove vuole lei. Andiamo avanti con i Blood Rock, formazione texana, sei elementi che condivideva con i Grand Funk Railroad lo stesso manager produttore Terry Knight. Li riascoltiamo dall'omonimo disco di esordio del 1970 con Gotta Find A Way. Understand. that you're gonna let it ride. You tell her how you feel about the birdies and the bees. You're standing by the lonely tree and you get you on your knees. I gotta find a way to understand. L'hard rock americano degli anni 70 è fatto anche di band che non hanno avuto poi lo sperato successo, ma che hanno lasciato una piccola impronta come blood rock. Che ne pensate? Beh, dopo aver ascoltato questo pezzo è strano dover veramente credere che una band come questa non abbia avuto il successo meritato, perché comunque credo che non avessero nulla da invidiare ai gruppi che in realtà poi di quell'epoca appunto hanno avuto maggior successo di loro. Poi è bella... Sono belli i ritornelli quando ci sono queste aperture con questi cori, è fantastico. Poi noi ci siamo sballati veramente, c'era San Pedro che fino a poco fa era qua che ballava in radio, con le braccia a falco. Imitavo, cioè immaginavo di avere i capelli lunghi, di scuoterli. Vostre esibizioni, come sono andate, quali le più importanti in termini di esperienza e quali le impressioni che avete raccolto dal pubblico a fine concerto? Beh, allora, ogni esibizione è un'adrenalina perché si racchiude tutti i sacrifici fatti per raggiungere quel concerto, fatti proprio per dare vita alla propria musica. E i concerti più belli sono stati sicuramente... al Bronson con Brand Bjork, proprio l'inizio della nostra esperienza, poi con i Dredge all'Estragon avuto la fortuna di condividere dei palchi importanti per il momento. Sì, poi è chiaro che ogni concerto ha una vita sua e quindi dipende poi magari da tanti fattori. Diciamo che per adesso le impressioni sono sempre molto positive. Fino adesso abbiamo sempre avuto delle belle soddisfazioni, quindi abbiamo avuto insomma l'energia giusta per andare avanti, per continuare su questo percorso. Concludiamo dunque questa prima parte con i Grand Funk Railroad, il super trio di Michigan, famoso per i suoi devastanti volumi dal disco d'esordio On Time del 1969, con la canzone High on Horse. I learned.